È possibile vivere una felicità duratura? Sono una persona solare nella mia vita e nella mia giornata e lo sono sempre stato. Ricordo un aneddoto di molti anni fa, durante la messa prima di un campo scuola, forse avevo 11 o 12 anni. Alla fine ci fu una sorta di atto simbolico in cui ognuno avrebbe preso da un albero un talento. Il talento che mi capitò al buio, ovviamente, fu il talento della gioia. E dissi, rimasi scioccato dal fatto che un esercizio così semplice mi avesse dato un messaggio così forte. Tu sei gioia. E solo in seguito capii l'importanza di quel gesto. Un po' come quando ti vai a sedere sulla sponda di un fiume e guardi l'acqua passare. Quel fluire, quello scorrere, ti dà una sensazione assai distensiva, una condizione di quiete e di assoluta presenza. Mi sono creato come due lenti nuove per vedere la realtà. Ti sei mai chiesto perché fai quello che fai? E se ti piace farlo perché devi portare a casa dei soldi a fine mese? In realtà, sei felice di quello che fai o stai tradendo te stesso perché i talenti che la vita ti ha donato li hai sotterrati e li hai dimenticati? Sembra quasi che molte persone che raggiungono uno status di benessere elevato si rassegnino al fatto che sia normale essere anche infelice o provare delle sensazioni di vuoto. Per cui mi sono chiesto, come può una persona essere contemporaneamente realizzata ma anche felice? Ambizione e felicità. Sembra che nella dialettica tra ambizione e felicità siamo di fronte alla dicotomia tra senza dolore non può esserci felicità. Posso essere una persona di successo ma al contempo felice? Come possono conciliarsi ambizione e felicità? Posso sfidare la massima senza sofferenza non c'è vittoria? Che è inutile sapere come essere e non essere felici se prima non ho identificato bene la felicità. Nell'esercizio di oggi ti sfido a riconoscere e definire che cosa sia per te la felicità. È un'emozione? È come il piacere? O è forse assenza di qualcosa, magari assenza di dolore? Per qualcuno potrebbe essere un'esperienza di beatitudine? Perché questi sono tutti sinonimi di felicità, ma non valgono universalmente. Perché nessuno di loro descrive esattamente che cosa sia la felicità. Lasciatelo dire, queste emozioni fugaci sembrano avere a che fare con la felicità, ma non ne sono i pilastri fondanti.